Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, a tu per tu con Silvia Avallone, in libreria il suo nuovo romanzo Marina Bellezza. Anteprima del domenicale, cosa troverete domani nell'inserto culturale del Sole 24 Ore. Prima edizione del premio letterario più ricco d'Italia. È quello di Neri Pozza, dedicato a un inedito. Oggi parliamo di un libro molto atteso, si intitola Marina Bellezza, l'ha scritto Silvia Avallone, pubblicato da Rizzoli. Dico che era molto atteso perché sicuramente vi ricorderete Silvia Avallone con la sua opera prima Acciaio, era stato un caso editoriale nel 2010, aveva vinto il Campiello opera prima ed era arrivata addirittura seconda al premio Strega, ma per pochissimi voti, insomma, dal primo classificato, da colui che vinse appunto lo Strega. E come sempre quando accade agli esordienti di successo, insomma, c'è sempre una grande attesa per il secondo romanzo. Che so, Silvia, tu detesti dire il secondo romanzo, insomma, c'è stata una certa ansia di prestazione per questa seconda opera. Ma devo dire che ho cominciato a sentire le primi terrorismi psicologici sul secondo prima ancora che Acciaio venisse pubblicato, e quindi conoscevo, diciamo, questo mito del secondo romanzo, scoglio terribile, e forse anche per questo mi ci sono da subito vaccinata e penso che in effetti il secondo romanzo sia un po' un falso mito, cioè esistono nuovi romanzi, ogni volta è un ripartire da zero, è un esordire, almeno per me, con me stessa, e quindi devo dire che poi quando ho finito il tour di Acciaio mi sono chiusa in casa con i miei tappi, mi sono concentrata e è stato bello, sì, scriverlo. Anche perché immagino che il tour di Acciaio ti abbia coinvolta tantissimo come tempo, come energie fisiche e mentali, sia una certa fatica poi nel ritornare a scrivere, perché tu sei stata buttata in qualche modo nel mondo dell'editoria con un grandissimo successo. Ma guarda, in effetti poi per me, ecco, incontrare lettori, vedere città che non ho mai visto, cioè ho conosciuto l'Italia con Acciaio, e secondo me è anche positivo che ci sia un tempo in cui tu semplicemente vivi, condividi quello che hai scritto con i lettori e quindi piano piano ti allontani da quella storia, da Anna e Francesca, le protagoniste di Acciaio, perché all'inizio quando appena lo finisci sei molto coinvolto, e quindi piano piano è salutare, secondo me. C'è bisogno poi di una pausa per trovare nuovi personaggi. Sì. E i personaggi nuovi che tu hai trovato per questo romanzo Marina Bellezza sono appunto, come dice lo stesso titolo, Marina, perché Marina è il nome, Bellezza è il cognome, è una bellezza di fatto questa ragazza, però appunto un cognome significativo. Marina e Andrea. Il romanzo è, come dire, la storia del loro legame, molto tumultuoso, possiamo dire, conflittuale. Insomma, sono due ragazzi che si incontrano, si scontrano, si lasciano e si ritrovano. Marina è una ragazza che ha voglia di andare via dalla provincia. Lei è in un paesino in provincia di Biella, che poi, insomma, ricordiamo, tu sei di quelle parti, e ha voglia proprio di emergere, di cantare, di diventare famosa. Ce la vuoi descrivere? Ma in realtà Marina, sì, vuole raggiungere Roma e Milano, perché Roma e Milano sono le due città in cui ci sono banalmente gli studi televisivi, in cui si vedono i VIP, no? Andare per locali, e quindi lei desidera conquistare il mondo, e il mondo per lei è anzitutto il mondo del successo, della visibilità, della fama, che si trova nelle grandi città. Detto questo, però, lei è figlia completa della sua valle, figlia delle donne della valle, che sono donne quasi mitologiche, quelle donne che sono sempre rimaste lì, i mariti le abbandonavano il giorno dopo averle sposate, e quindi stava a loro tirare sulla famiglia, appunto i mariti tornavano solo per metterle incinte, queste donne, e quindi lei è figlia anche di una selvatichezza, di una tenacia, la sua bellezza è anzitutto questa natura che rispecchia questa questa valle. E poi però c'è anche l'altra bellezza, la bellezza come potere da esercitare, come dono immeritato. Però voglio dire, io l'ho costruita perché fosse scomoda da giudicare. Questa bellezza funziona anche un po' da trappola, perché lei in realtà poi il successo lo fa, e lo fa perché ha talento ed è molto professionale nello sfruttare questa sua voce. E nello stesso tempo però, quando arriva al successo, si ribella al successo. Quindi per me è proprio l'anima selvatica di questi luoghi. È proprio anche una parabola del voler andare fuori e nello stesso tempo rimanere attaccati alle proprie radici, come invece fa Andrea, perché Andrea è un personaggio maschile in qualche modo più coerente con se stesso, cioè ha da sempre questo fortissimo legame con le radici, che è poi un rapporto che hai anche tu, insomma, immagino. Sì. Tu sei più Marina, insomma, lo vivi in modo conflittuale, o sei più Andrea, lo vivi in modo sereno? Io non sono nessuno dei due, devo dire. Sono la madre di entrambi, quindi li guardo con protezione, non sempre li condivido. Il punto è che viviamo in un momento in cui tutti ci dicono, miei coetanei e alle generazioni successive alla mia, che è ovvio che devi andare via dall'Italia se vuoi un'opportunità. E quindi quando qualcosa diventa ovvio, a me piace cercare l'alternativa, no? Quindi alla base, no, di questo romanzo c'era proprio l'intenzione di dire: comunque esistono anche altre strade che possono sembrare folli, però sono percorribili. E una di queste strade, che ormai sta diventando trasgressiva e rivoluzionaria, è non solo rimanere in Italia, ma ritornare in quelle province che sono state spopolate dalle generazioni precedenti e ripartire da quelle bellezze, da quelle ricchezze che sono rimaste nascoste, e quindi in qualche modo ricostruire. E questo è un sentimento che io sento molto forte e condivido con i miei personaggi. Penso che la mia generazione sia chiamata davvero a fare questo, a ricostruire. E su questo legame con il territorio, su questo tornare indietro, si creano però dei conflitti fra questi due personaggi, fra Marina e Andrea. Che tipo di legame c'è fra loro? Beh, loro sono, diciamo, per me eroi in questa loro sfida al non futuro che hanno davanti, e eroi anche nei sentimenti, perché per quanto possano appunto essere così opposti, perché lei vuole essere la donna più visibile d'Italia, lui non vuole essere cercato, non ha Facebook, non vuole essere trovato, lui si vuole svegliare alle 5 del mattino e godersi l'alba nel suo alpeggio, quindi sono opposti, però sono legati da un senso di fedeltà assoluta. Cioè in loro l'amore non è attrazione, destino, è una scelta, in particolare per Andrea. E Andrea è quindi uomo, giovane uomo della valle, molto silenzioso, che l'aspetta di fatto. L'aspetta invece in quelle che sono le furie, le contraddizioni di Marina. E Marina, per quanto possa scappare, resta comunque anche lei fedele a questo uomo. Nell'incertezza completa che circonda questi due personaggi e nel dolore, nelle ferite che si portano dalle loro famiglie, l'uno e l'altra diventano gli unici punti di riferimento, e qui in questo diventano appunto eroici anche in questo loro amore. Tu citavi le valli, direi che forse uno dei protagonisti di questo romanzo, oltre a Marina e Andrea, è proprio il paesaggio. Tu lo descrivi sempre in maniera molto puntuale, con attenzione, c'è sempre la valle, c'è sempre un cielo, c'è sempre una montagna, c'è sempre la natura protagonista di questo romanzo. Quanto è per te importante inserire il paesaggio come personaggio? Io parto dai luoghi. Non faccio scalette, non faccio schemi di trame, di nulla. Io parto anzitutto dal sentimento che provo verso un luogo e anche dalla necessità, no, che questo luogo mi ispira. Io avevo molta necessità di libertà in questo romanzo, per reagire proprio al tempo che stiamo vivendo, che è un tempo in cui tutto sembra impossibile. Ecco, allora io ho bisogno di respirare, tornare in una valle come la Valle Cervo, che è un luogo per me estremamente bello, ma anche estremamente sconosciuto. Diventava quasi un tornare di fronte a una frontiera. È anche per questo che ho recuperato il mito della frontiera del Far West. Cioè una terra quasi tornata vergine, che noi possiamo riconquistare, e questo accade realmente, perché di fronte alle città che ci tradiscono, allora non ne vale più la pena, no? Di resistere nei call center. Quindi tanto vale riappropriarci di questi luoghi che ci danno, se non altro, la possibilità anche immaginativa di ricominciare una storia in quest'epoca, fine della storia. E la natura in tutto questo, noi in Italia siamo pieni di paesaggi bellissimi, sia urbani sia naturali. Ecco, questa natura che è stata inquinata, calpestata, abbandonata, noi in qualche modo possiamo prendercene cura, darne una nuova vita. E tu le dai anche una notevole importanza, visto che, appunto, dicevamo, è un po' uno dei protagonisti di questo romanzo. E sembra quasi insolito che una scrittrice giovane come te, una trentenne, descriva dei personaggi giovani, perché i personaggi sono al di sotto dei 30 anni, che vogliono quasi tornare indietro, appunto recuperare, come dicevi tu, vecchie tradizioni, o meglio, ritornare a vivere in luoghi che sono stati abbandonati. In te c'è anche questa necessità, o la vivi solo come rifugio occasionale? Ma io penso, ecco, la vivo come una possibilità che in qualche modo in questo momento sta tornando con un nuovo valore, nel senso che io percepisco una grande stanchezza verso tutti i desideri che ci hanno imposto negli ultimi 20 anni. Devi diventare ricco, famoso, nella vita ti devi divertire, devi appunto vivere al centro di una grande città, devi vincere a tutti i costi. Ora, questo è ovviamente un abbaglio, perché nessuno può vincere sempre. E a un certo punto, quando ti ritrovi con la realtà, come in questo momento, che appunto sta negando la favola che ci hanno raccontato, inizi a cambiare le tue domande e a dire: ma allora cos'è più importante? Dove posso arrivare o da dove provengo? Cosa ho lasciato? Qual è l'inizio? La mia infanzia? La mia famiglia? Ecco, questo è semplicemente un cambio di prospettiva, un cambio di categoria. Era questo che mi interessava, diciamo, raccontare. Ribaltare un pochino il piano, appunto, anche dei valori, insomma, sì, delle categorie della vita di ognuno di noi. Lo sappiamo, non ti piace parlare di questo come del tuo secondo romanzo, ma di un altro romanzo. Però inevitabilmente tutti faranno dei paragoni con Acciaio, anche poi a livello di vendite avrà venduto di più, di meno, eccetera. Ti disturba questo genere di attenzione? No, nel senso che per me la cosa fondamentale del mio mestiere è comunque scrivere e godermi anche la scrittura, perché la scrittura è lavoro, è fatica, è costanza, ma è anche un gran godimento, perché tu ti regali, quando scrivi, le vite che non hai e che magari segretamente vorresti. E io, come con Acciaio, a 25 anni mi ero goduta queste due ragazzine, gli operai, adesso io mi sono goduta tantissimo Marina, che era anche un personaggio che io ho sempre sognato di raccontare, perché sono sempre rimasta affascinata da queste grandi icone, queste grandi cantanti americane, e l'idea di fondere, no, un'icona del genere con una ragazza selvatica di provincia è sempre stato il mio sogno. Quindi ecco, qui finisce per me il mio lavoro. E poi arriva quello di tutti i lettori, insomma, che leggono e magari si immedesimano nei personaggi dei romanzi. Grazie Silvia Vallone, ora in libreria con Marina Bellezza, pubblicato da Rizzoli. Vi ricordiamo che Silvia Vallone, proprio con Acciaio, forse avevi fatto la prima intervista radiofonica qui a Radio 24, quindi sul nostro sito potete ritrovare anche quella famosa vecchia intervista su Acciaio, oltre naturalmente a questa. E noi ora passiamo a vedere quali sono le anticipazioni del domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, che sarà domani in edicola. E allora, Armando Massarenti, responsabile del domenicale del Sole, storia di copertina di domani? È una copertina molto importante, perché è il lavoro di 10 anni di uno dei nostri più grandi filosofi, che è anche un nostro collaboratore, Remo Bodei, che pubblica per Feltrinelli un libro intitolato Immaginare le vite degli altri. E questo è un libro pieno di letteratura, pieno di immaginazione, cioè appunto dobbiamo pensare quanto, molto più di quanto accadeva in passato, noi ci caliamo nelle vite di altre persone, vuoi appunto leggendo un romanzo come si è sempre fatto, ma anche vedendo molta fiction televisiva, molto cinema, andando a teatro, insomma forse un po' meno, ma poi soprattutto frequentando magari i social network e internet in generale. Ecco, questo, qual è la teoria di Bodei? La teoria di Bodei è che questo può creare da un lato un forte spaesamento, ma dall'altro è anche corroborante della nostra costruzione dell'io. Però ci sono una serie, chiaramente, di paradossi relativi a queste due polarità, cioè ecco, al fatto di esserne. Ma l'esempio in realtà no, non c'è da fare un esempio, perché l'idea è proprio questa, che da un lato noi immedesimandoci negli altri vediamo una varietà di possibilità, no? E questo cosa fa? Indebolisce il nostro io, no? La nostra identità. Nel momento in cui però cerchiamo di rinsaldarla, troviamo appunto tutte queste varie sirene che continuamente ci portano in varie direzioni. E allora cosa bisogna fare? Bisogna riflettere dal punto di vista appunto filosofico, come fa Remo Bodei, senza abbandonare questa possibilità che la letteratura ci ha sempre dato di calarci in maniera molto profonda, anzi farlo forse in maniera ancora più decisa proprio oggi, visto che abbiamo tutte queste tentazioni che invece ci tendono a disorientarci. Peraltro, proprio sul Domenicale noi proporremo, perché ci piace riflettere, ma ci piace anche dare direttamente delle pagine di letteratura molto belle, c'è un inedito niente meno che di Flaubert. Ah, però. E peraltro uno degli autori con cui masse di persone si sono formate, si sono immedesimate appunto in pensate semplicemente a Madame Bovary, ma addirittura c'è una parodia di Woody Allen in cui immagina appunto di calarsi attraverso una macchina, attraverso un marchingegno di un mago, no? Di poter vivere nella vita di Madame Bovary e magari di corteggiarla, eccetera. Quindi anche questo è un grande esercizio di immaginazione. Ma quello che noi proponiamo è un racconto di Flaubert in cui si vede proprio il suo apprendistato narrativo con questa grandissima capacità di calarsi in mondi quasi allucinatori, diciamo, che era una delle sue caratteristiche. E mi ha incuriosito tanto, Armando, quindi insomma mi toccherà leggerlo questo inedito di Flaubert, diciamo toccherà, che poi non è un obbligo, è sempre bello immedesimarsi e calarsi nei personaggi della letteratura. Grazie ad Armando Massarenti, responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, l'inserto culturale Domani in Edicola. Noi invece ora parliamo di premi letterari. È il premio per la letteratura Neri Pozza, prima edizione, assegnato giovedì 3 ottobre a Vicenza. È un premio innovativo nel panorama italiano perché è rivolto ad opere inedite di alto valore letterario, quindi sono esclusi per esempio i gialli, i memoir, i fantasy, ed è un premio particolarmente ricco, un po' sul modello dei premi stranieri. Il vincitore infatti si aggiudica 25.000 euro e la pubblicazione, come ci spiega il direttore editoriale di Neri Pozza, Giuseppe Russo. Questo premio nasce guardando anche fuori d'Italia, perché in Spagna esistono da anni premi letterari indetti dalle case editrici che hanno segnato la storia della letteratura spagnola, cioè delle grandi case editrici spagnole come Planeta, Anagrama, Alfaguara. La storia della letteratura spagnola del dopoguerra è stata fatta attraverso i premi indetti dalle case editrici spagnole. Abbiamo cercato di fare lo stesso, muovendo da una duplice insoddisfazione rispetto alla situazione e dei premi e della narrativa italiana attuale. La prima insoddisfazione era che i premi generalmente esistenti in Italia premono opere già affermate nel mercato e, come dire, in un certo senso non rispondono al compito proprio di un premio letterario, che è quello di promuovere nuovi talenti. La seconda insoddisfazione è che la scena letteraria italiana è dominata dalla fiction, dalla narratività, cioè dall'intrattenimento per certi aspetti, ma il contenuto più proprio della letteratura non è soltanto l'intrattenimento, è quello che io ho definito valore conoscitivo della letteratura, no? La letteratura ha un compito di questo tipo, no? Ed è un po' quello che manca ora nella scena letteraria italiana. Noi abbiamo indetto questo premio alla ricerca di questo, alla ricerca di opere che avessero un contenuto letterario di questo tipo. I timori erano enormi. Poi i risultati, che tipo di opere vi sono arrivate? Ne sono arrivate quasi 2000, quindi insomma c'era un po' di tutto. Però che cosa vi ha colpito di più? Mi lasci dire che le 1800 opere arrivate sono enormi, di modo che dal punto di vista quantitativo il premio è un successo strepitoso, ma lo è anche da un punto di vista qualitativo, perché le opere che ci sono arrivate, scritte tutte molto bene, tutte con un tentativo di illuminare lo spirito del tempo. Quanta cura avete trovato nel linguaggio, nella ricerca delle parole, nei testi che sono arrivati e che soprattutto quelli che avete selezionato? Il livello stilistico devo dire che è considerevole. Ci sono dei casi all'interno della Cinquina di assoluta padronanza stilistica e dunque per certi aspetti lo stato della narrativa italiana attuale non è uno stato insoddisfacente, al contrario, si vede che esiste una tradizione letteraria ancora viva. Vincitore della prima edizione del premio Neri Pozza è Marco Montemarano, che così ci racconta il suo romanzo, che sarà in libreria a novembre dopo un editing in tempi record. La versione brevissima è questa: due fratelli ricchi diventano poveri. Ovviamente non è tutto qui, c'è un terzo personaggio il quale cerca di inserirsi continuamente tra di loro, è un personaggio a cui manca l'affettività, l'affetto di una famiglia, lo cerca in quest'altra famiglia di cui fanno parte questi due fratelli, cercando di inserirsi continuamente tra di loro in vari modi per tutta la vita, fino a scoprire che il senso di colpa che lui ha sviluppato nei confronti di questi due fratelli è forse infondato, forse non è fondato su fatti che sono successi realmente. Quindi diventa una sorta di, chiamiamolo così, thriller della memoria. E vista l'ottima qualità dei manoscritti arrivati in Cinquina, la casa editrice ha deciso di pubblicarli tutti quanti entro la prima metà del 2014. Chiudiamo questa puntata del Cacciatore di Libri con un po' di segnalazioni interessanti. Allora, prossimo fine settimana, quindi dall'11 al 13 ottobre a Ravenna, Comikazen, un festival internazionale del fumetto di realtà. E a proposito di fumetti, torna Capitan Mickey, che era stato famoso negli anni 50. Dal 10 ottobre, infatti, ogni giovedì, in allegato al Sole 24 Ore, vengono riproposti appunto i suoi fumetti. E poi una segnalazione in zona Cesarini, perché ormai è sabato sera, insomma riguarda solo domani, ancora per domani, domenica, a Torino, Portici di Carta, sotto i portici del centro, i banchetti dei librai indipendenti e poi come sempre incontri con gli scrittori e dibattiti. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate anche su Twitter come Ale Teddina. E per scrivere i vostri pareri sui romanzi che leggete, il cacciatore di libri @radio24.it. Buona lettura da Alessandra Tedesco.